Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Subito le informazioni in servizio rapide perché la puntata di oggi è molto importante. Allora, radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate con qualunque motore di ricerca, oltre che su Radio 24 sul Sole 24 Ore, la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Oltre un mese fa abbiamo affrontato un caso straordinario. Ci troviamo in Calabria, isola di Capo Rizzuto, comune straordinario, una terra straordinaria dove esiste la maggioranza di brave persone, gente onesta che lavora e una cosca potente, potentissima, la cosca Arena, è una delle più potenti cosche della Calabria e ovviamente questo vuol dire del mondo intero, perché la 'ndrangheta, lo sapete, è la più devastante organizzazione criminale al mondo. Una donna coraggiosa, un sindaco, si chiama Carolina Girasole, decide insieme a Libere, al prefetto, alla prefettura di Crotone, guidata da un uomo straordinario che si chiama Vincenzo Panico, lo dico perché ci credo, non certamente per piaggeria, di prefetti così ce ne sono pochi in Italia, lasciatemelo dire, decidono di fare un raccolto di legalità e raccolgono, oltre un mese fa con difficoltà, inenarrabili finocchi. Allora, che cosa succede nel frattempo? Le istituzioni ovviamente sono brave a riempirsi la parola, la bocca di parole vuote, no? Accade che c'è una piantagione di orzo, c'è da fare un nuovo raccolto e Don Ciotti, Don Luigi Ciotti, a capo di Libera, denuncia all'agenzia di stampa che quella raccolta non si può fare, non c'è nessuno che si presenta. Ma perché? Perché lì la legge è rappresentata dallo Stato, dai suoi uomini migliori, ma c'è una controlegge, un controstato che è rappresentato dalla Cosca Arena, dalla 'ndrangheta, ed è quindi qui che noi torniamo ad appoggiare questa catena di legalità. Buongiorno al sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Carolina Girasole. Buongiorno. Buongiorno a Davide Pati, che è responsabile dell'Ufficio Nazionale dei Beni Confiscati di Libera. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno di nuovo al prefetto di Crotone, Vincenzo Panico. Buongiorno prefetto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, sindaco Girasole, che cosa sta accadendo a Isola di Capo Rizzuto? Sta accadendo che la gente di buona volontà si sta impegnando a fare i raccolti della legalità. Dopo i finocchi siamo riusciti a raccogliere anche l'orzo, con ulteriori difficoltà, ma con l'impegno da parte di Libera, della prefettura, di Don Luigi, anche dell'amministrazione, di alcuni assessori che ci sono impegnati veramente tanto, siamo riusciti anche questa volta nella grande opera. E quindi quel grido, quell'allarme lanciato da Don Ciò, attenzione, mancano le braccia per raccogliere, perché c'è la paura nel raccogliere nei beni confiscati alla Cosca Arena, è stato un appello che ha trovato confronto e conforto, direi. Sì, vabbè, diciamo che le associazioni di categoria sono insieme con noi in questo grande progetto ed è proprio dalle associazioni di categoria che poi c'è stato questo scatto, quindi è stata trovata la trebbiatrice. Ecco, bene, Davide Pati, allora in occasioni diverse i prefetti si erano imposti al punto di dire prendiamo, sequestriamo queste trebbiatrici, le facciamo guidare dai carabinieri e andiamo a trebbiare. Allora, Davide, che cosa è successo in questa situazione? Però mi domando, insomma, è possibile che ci sia un clima di paura fino a questo punto? Cioè, lo so che la risposta è sì, ma che cosa bisogna fare di più per fare in modo che un sindaco abbia intorno a sé veramente una rete di protezione la più ampia possibile? Sì, i progetti di riutilizzo dei beni confiscati devono sconfiggere le mafie in quello che è il loro punto di forza, il consenso che hanno, fatto anche di rassegnazione, di indifferenza e paura, come abbiamo trovato in questo caso. Ma il percorso avviato, grazie al prefetto di Crotone, al sindaco, all'amministrazione comunale tutta, è un percorso che durerà ancora tanto tempo, come tanto tempo sarà necessario per sconfiggere questa paura, certo, in quel territorio. Noi confidiamo che i cittadini, le associazioni di Isola possano riprendersi questo territorio fortemente martoriato dalla presenza criminale mafiosa. Assolutamente. Sindaco Girasole, prima di passare al prefetto Panico vorrei chiedere una cosa. Chi mi segue sa che io non preparo mai nulla, cioè non voglio sapere i retroscena di quelle che sono le situazioni, perché la trasmissione è una chiacchierata tra persone che hanno un obiettivo comune, quello di credere in principi e valori. Ringraziando Dio ci ascoltate in molti. Sindaco Girasole, ma lei in qualche modo è stata minacciata dalla Cosca Arena? Le sono arrivate minacce dirette e indirette, fatti gli affari tuoi, smettila, oppure agisce come dire in maniera stranamente così silente rispetto a appunto a eventuali pressioni che possono giungere dall'Andrangheta? No, diciamo che pressioni dirette, minacce dirette io non ne ho mai avute. Sì. Sicuramente quando poi i riflettori si spengono e la stampa va via, noi rimaniamo a circolare nelle vie di questo paese. Il nostro vicino di casa, quello che incontriamo al bar, potrebbe essere uno di loro. Per cui magari dal silenzio, dal fatto che l'altro si volta dall'altra parte, o comunque la non condivisione completa da parte di una parte della popolazione di questo progetto sulla cooperativa sociale, è anche l'indice di quanto insomma le famiglie gradiscono queste operazioni. Assolutamente. Che stiamo compiendo. Assolutamente. Allora, lei ha detto una cosa sacrosanta, la quale io credo in maniera viscerale, vale a dire lei ha detto: quando poi i riflettori della stampa, dei media, l'attenzione si spengono, poi rimaniamo noi amministratori, noi sindaco Girasole, noi amministratori di Isola di Capo Rizzuto a fare i conti con questi personaggi. Lei è stata fin troppo gentile, perché ovviamente in quel comune tutti sanno chi appartiene alle cosche, non c'è un comune in Calabria in cui tutti non sappiano tutto del proprio vicino di casa. Conosco la Calabria, non dico come le mie tasche, ma abbastanza bene per non sapere che in qualunque comune si vada si sa vita, morte e miracoli del proprio vicino. Quindi il sindaco Girasole obiettivamente ha un compito enorme, difficilissimo, non dobbiamo lasciarla sola. Io i riflettori li tengo accesi, sindaco, e li tengo accesi anche sulla straordinaria opera che sta facendo la prefettura di Crotone. Prefetto Panico, a lei la parola, ci dica, come dire, ambizioni, difficoltà e prospettive di questa operazione. Quando si spengono i riflettori, lo Stato continua in questa battaglia verso la priorità, che è una delle priorità maggiori di questa terra, che è il riuso, quindi riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati. Il grido d'allarme che era stato lanciato è stato raccolto immediatamente, ma qui ricordo che opera un gruppo di coordinamento in prefettura continuamente in contatto sia con le associazioni che con l'amministrazione comunale per superare queste difficoltà. E devo dire che rispetto alla Sicilia, questa volta la determinazione dimostrata dallo Stato, perché io convocando subito le associazioni, ovviamente ho nel rappresentare che noi saremmo andati avanti comunque, devo dire che nel giro di un'ora il mezzo è stato trovato. Questo dimostra che il messaggio è stato raccolto. Ora noi dovremo continuare su questa strada, perché dobbiamo aggiungere al risultato finale quello che una cooperativa sociale gestirà in via permanente questi beni. Ecco, questo è una cosa bellissima che ha detto il prefetto. Vorrei sottolinearla, cari ascoltatori, una cooperativa sociale che gestisca in modo permanente questo bene confiscato. Questo, mi auguro che ce ne siano ancora tantissimi di beni confiscati e riutilizzati a fini sociali. Davide Pati, vorrei concludere con lei. Quanto è importante far capire che anche acquistare un prodotto strappato, coltivato nelle terre strappate alle cosche, quanto è importante far capire che questo prodotto è un prodotto di legalità. Diciamolo che libera dei punti vendita anche in cui, ma pensate che bello il sapore di comprare della pasta siciliana piuttosto che dei vini calabresi che sono il frutto di terre confiscate alla mafia. Non ha un sapore meraviglioso, ragazzi? Prego, Davide. Sì, i prodotti che vengono dalle terre confiscate sono prodotti buoni, puliti e giusti, bene, così possiamo chiamarli, certo, che danno lavoro ai giovani del territorio, un lavoro vero, non come il lavoro nero o caporalato, esatto, delle mafie, anche l'intera di Calabria. Una grande attenzione quindi a tutto questo, per creare un'economia alternativa a quella... Assolutamente, un'economia pulita, la mafia, le mafie non creano occupazione, non creano ricchezza, creano soltanto la disgregazione di un tessuto sociale ed economico che parte dal sud e ormai, come diceva Leonardo Sciascia, sta arrivando velocemente al nord Italia, sempre più velocemente. Allora io ringrazio i miei ospiti, saremo ancora qui al loro fianco, grazie a Paolo Corleoni in regia e in studio a Valeria Coffaro, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.